che te ne frega se adesso il tuo re non ha bisogno di te. Ora un altro con cui giocare e non ti vuole. Tu hai la tua strada, non perderti, Greg, dentro i tuoi mille perché. Mentre il tuo dolore ti uccide, il re sorride. Prima andavi in TV, mentre adesso i ricordi ti bruciano il cuore. Dal momento che è lui che ha il successo, quell'ignoto straniero, il nuovo capriccio del re. Non te la prendere, povero Greg, pensa all'orgoglio che in te. Mentre il tuo dolore ti uccide, il re sorride. Hai ragione, lo so, non è giusto, ma la forza che cambia ogni cosa è la tua dignità. Tutto il resto può venire, andare, persino tornare, Greg. Vedrai, verrà il giorno che il tuo re cercherà ancora di te. Gioco per bambini cresciuti, ma un po' viziati. Hai ragione, lo so, non è giusto, ma la forza che cambia ogni cosa è la tua dignità. Tutto il resto può venire, andare, persino tornare, Greg. Vedrai, verrà il giorno che il tuo re cercherà ancora di te. Primo fra i giullari sfruttati, ignorati e poi ricordati. Oh, giochi per bambini cresciuti, ma un po' viziati.